Scusami per ieri sera, ma quando bevo non lo so. Scusa ancora per la cena, giuro che mi rifarò. Tu che hai fatto un po' di tutto per un diavolo in inverno. Tu che sei fin troppo bella, così bella da convincere un santo a ballare all'inferno. So che sei timida, timida, solo se vuoi la vita vivila, vivila. Fuori gli eroi faranno pure finta di salvare il mondo, ma io sarò sincero con te fino in fondo e ti dirò: non ho fatto l'università, tiro tardi a bere con i fra. Non lo so dove ci porterà, siamo cresciuti al contrario. E stasera ci ubriachiamo un bar, poi balliamo finché chiuderà. So che stiamo bene assieme, ma siamo cresciuti al contrario. Guarda le stelle, guarda il cielo, guarda il mare, guardami negli occhi, dimmi che pensi al nostro futuro. Io che ti prendo dolcemente per le mani, ti sussurro piano piano nell'orecchio: ma vaffanculo, facciamolo sulla sabbia se sei curiosa. Puoi chiedermi un po' di tutto, puoi farmi qualunque cosa. Non sono affatto come il tuo ragazzo che ti sta addosso più di un indiano che vuole venderti una rosa. E non ti preoccupare se la vita ti incasina, si impara più da un mare mosso che da una piscina. Siamo la generazione adrenalina, siamo gli assassini della notte, vittime della mattina. Siamo in piazza a ballare per un DJ, puoi trovarci un locale, un qualche re. Fra per ridere non serve mica un laureato, tanto il mondo in tasca e mica ce lo siamo comprato. Ma non ho fatto l'università, tiro tardi a bere con i fra. Non lo so dove ci porterà, siamo cresciuti al contrario. Che stasera ci ubriachiamo un bar, poi balliamo finché chiuderà. So che stiamo bene assieme, ma siamo cresciuti al contrario. Siamo i figli delle stelle, ma di chi le stende? Noi siamo i nuovi decadenti con poesie nei server. Vendiamo a chi ci vuole male, che ci vuole al mare, a far casino tutta notte, tutti giù a cantare. Non ho fatto l'università, tiro tardi a bere con i fra. Non lo so dove ci porterà, siamo cresciuti al contrario. Che stasera ci ubriachiamo un bar, poi balliamo finché chiuderà. So che stiamo bene assieme, ma siamo cresciuti al contrario. Non ho fatto l'università, tiro tardi a bere con i fra. Non lo so dove ci porterà, siamo cresciuti al contrario. Che stasera ci ubriachiamo un bar, poi balliamo finché chiuderà. So che stiamo bene assieme, ma siamo cresciuti al contrario. Non ho fatto l'università, tiro tardi a bere con i fra. Non lo so dove ci porterà, siamo cresciuti al contrario. Che stasera ci ubriachiamo un bar, poi balliamo finché chiuderà. So che stiamo bene assieme, ma siamo cresciuti al contrario.